pensando ai soldi, i soldi sono il focus. Io li faccio apparire dicendo cus pocus. Troppo svegli per sto gioco, cambieremo modus. Scopo anche sovrappeso, mi sento notorious. Da come parli sembra che è una vita bonus. Do speranza alla mia gente, Young Trap è una onlus. Kebab salsa yogurt, io non mangio tofu. 10 mitre in sincro, sembreranno il chorus. In un live al forum, io gli ultimo shogun. Questa merda è il mio tesoro, lo difendo come Gollum. Pressione addosso, salvo la mia terra come Goku. Voglio comprarmi un Panzer, non voglio una Lotus. Terzo occhio è quello di Horus, fatto in sull'Atomium. Questa non è trap, puoi definirla un Horcrux. Non ho mai preso il Valium, San Cosimo era opium. Il mio slang indecifrabile, sembra Latinorum. Torno a casa sul nastro di Mobius, rap magnum opus. Un genio non ripete. Dite che mi ammazzate, io rispondo in quanti siete. Finalmente va come si deve, 10k al mese. In una settimana tre troie diverse. Mi sento bene perché un genio non ripete. Dite che mi ammazzate, io rispondo in quanti siete. Siete di sangue nelle strade, non ce la farete. Sta merda era senza mercato, ma m'ho preso piede. Ora la gente ci crede, io ce lo provvede. Fatto con il diavolo, Niccolo Paganini. Questi non comandano, sono cavallini. Vogliono fare brutto, sono patatini. Scendi in Puglia, torni con il buco come i tarallini. 5 kg di prodotto, fatto tutto a pallini. Arriva uno scafo che fa invidia pure i tabacchini. I fiori del male ormai sono appassiti. Chi va con lo zoppo impara che sta vita è fatta a scalini. La mano in petto del mia culpa sembra un arachiri. Siamo luminari, tracidi e luciferini. C'hai nominato 7 volte, noi siamo appariti. I miei seguaci non hanno i miei poster, hanno i miei altari. Stavo coi delinquenti, adesso in mezzo agli affaristi. Con le candele in un seminterrato come i satanisti. Alcolizzati siamo casinisti. Sono a cena coi ricchi, li chiamo carissimi. Kid Yugi. Un genio non ripete. Dite che mi ammazzate, io rispondo in quanti siete. Finalmente va come si deve, 10k al mese. In una settimana tre troie diverse. Mi sento bene perché un genio non ripete. Dite che mi ammazzate, io rispondo in quanti siete. Siete di sangue nelle strade, non ce la farete. Sta merda era senza mercato, ma m'ho preso piede. Ora la gente ci crede, io ce lo provvede.